A Rofiera, in questi giorni, i padiglioni della Biennale Eurocucina sono tra i più affollati. Si rischia di perdersi tra le decine e decine di proposte, tra le quali però alcune tendenze comuni emergono chiaramente. Intanto, la trasformazione del valore simbolico dell'ambiente cucina, un tempo quello per eccellenza dedicato alla convivialità, all'incontro della famiglia, che oggi si sposta invece tra la zona living e le camere da letto. In compenso, fra cappe, fornelli e tavole apparecchiate spunta decisamente un nuovo ingrediente, la tecnologia. Dalla ricerca avanzata per la finitura dei materiali soggetti ad usura fino alla cura di accessori e complementi che hanno lo scopo di rendere più facile e più bello il rito del cibo. Da non perdere al padiglione 11 l'esposizione collaterale FTK Technology for the Kitchen, dedicata a 30 prestigiosi marchi. Prevale, sia nelle proposte classiche che in quelle di design, la preferenza per i materiali naturali, dal metallo al legno alla muratura. Fra gli allestimenti, alcuni particolarmente scenografici, si nota il desiderio di un ritorno a un ambiente domestico dal gusto vagamente nostalgico. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.